Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, tariffa bioraria. Parliamo di questo stasera. Come ricorderete, se ne parlò molto, è stata introdotta il 1° luglio del 2010 e consiste nel fatto che noi paghiamo in una certa fascia oraria dalle 8 di mattina alle 19 un po' di più e paghiamo un po' di meno nelle altre ore dalle 19 alle 8 di mattina. Perché? Perché questo dovrebbe riflettere il fatto che l'energia nel corso della giornata effettivamente costa di più, perché c'è un picco di domanda energetica e quindi entrano in funzione anche centrali che producono energia a costi un po' più alti e che lavorano per poche ore. Quindi con la tariffa bioraria si vuole smorzare il più possibile le differenze fra il picco e i momenti in cui invece la richiesta di energia è più bassa, per poter utilizzare le centrali più efficienti e per rendere più efficiente nel suo complesso anche la rete elettrica. Ma che cosa è cambiato dall'introduzione di questa tariffa bioraria, che ricordiamo ha richiesto l'installazione di 35 milioni di contatori intelligenti? Bene, ne parliamo con Massimo Gallanti, che è direttore del Dipartimento Sviluppo Sistemi Elettrici dell'RSE, Ricerca Sistema Elettrico. Buonasera Gallanti. Buonasera Melis e buonasera a tutti i radioascoltatori. Bene, voi avete confezionato un rapporto, fatto una fotografia che ci consente di capire appunto che cosa è cambiato dall'introduzione della tariffa bioraria. Gallanti. Sì, noi abbiamo svolto un'indagine su 10.000 clienti rappresentativi dei clienti domestici italiani per vedere come la tariffa bioraria ha inciso sui loro consumi e sui costi dell'energia sostenuta. Bene, da questa analisi è emerso che il cambiamento che dal primo semestre 2010 al primo semestre 2011, cioè da prima che fosse introdotta a dopo che è stata introdotta, è un cambiamento percepibile ma piccolo, cioè mediamente c'è stato uno spostamento di un kilowattora al mese nell'insieme dei clienti. Questo vuol dire che un certo numero di clienti, circa il 60%, hanno spostato i propri consumi in misura più o meno rilevante dalle ore di alto carico alle ore di basso carico, mentre un 40% è rimasto insensibile o addirittura ha trasferito i consumi in verso opposto. Ecco, complessivamente quanta energia che prima veniva consumata diciamo nella fascia più costosa adesso viene consumata nella fascia meno costosa? Ma guardi, stiamo parlando veramente di una percentuale piccola, meno dell'1% per il cliente. Questo anche perché i consumi dei clienti domestici italiani sono già prevalentemente collocati nelle fasce di minor consumo. Basta pensare che queste fasce sono quelle serali e quelle della sabato e della domenica, dei giorni festivi, le ore in cui i clienti sono a casa e quindi consumano energia. Quindi il margine per spostamento era ridotto già in partenza, in parole povere. Senta, ma allora in questo punto viene il dubbio che sia servito a poco, a parte, come dire, i proclami, insomma 35 milioni di contatori, ma allora ne è valsa la pena? Ma guardi, la tariffa bioraria è stata resa possibile dai contatori, non è l'unica ragione per cui sono stati montati i contatori ovviamente. Direi che la tariffa bioraria risponde a un principio generale secondo il quale il prezzo pagato dal cliente deve riflettere il costo di approvvigionamento dell'energia. Quindi è corretto che chi consuma nelle ore in cui l'energia costa di più paghi anche di più questa energia. Ecco, ma dal punto di vista pratico sembra che poi questa cosa funzioni relativamente poco. Perché c'è qualche modo per rendere più efficiente questo sistema di incentivo disincentivo? Ma guardi, funziona poco, nel senso che, come dicevo prima, che molta gente già consuma. Sì. Ecco, ha spostato poco perché i consumi, come dicevo, sono già ben collocati. Per spostare ulteriormente, quindi per avere diciamo ulteriore spostamento, sarebbe necessario un segnale di prezzo maggiore, più forte, perché ricordiamo la differenza di prezzo tra come dire, quanto si paga in fascia 1 e nelle altre fasce, quelle più economiche, quant'è? Per la sola componente energia nella fase transitoria è stato il 10%, se invece guardiamo quello che succede dall'inizio di quest'anno è all'incirca intorno al 18-20%, quantomeno la differenza di prezzo relativa alla componente energia. Ecco, no, spieghiamo bene questo fatto. Sì, appunto. Diciamo che nel prezzo che paga l'utente ci sono varie voci, una di queste è l'energia che effettivamente utilizza. E poi ci sono tutte le tasse. Poi ci sono le tasse, i costi della rete e quant'altro. Ecco, risultato reale, quello che percepiamo capisce l'utente che non gliene frega molto se è una su una componente o sull'altra, quant'è? Ma guardi, sono diciamo alcuni per cento, si va a seconda dello scaglione di carico, di consumo, dal 10% al 6-7%. Ecco, quindi è possibile semplicemente che si debba aumentare questo delta costo per rendere sensata l'operazione? Allora, tenendo conto che questo delta costo dovrebbe riflettere effettivamente dei costi di approvvigionamento sottostanti, che quindi dovrebbero essere rilevanti, se volessimo aumentarlo dovremmo concentrarci su quelle ore in cui l'energia è effettivamente più cara. Oggi noi abbiamo a che fare con due sole fasce in cui è divisa il consumo di energia. Se invece di due fasce ne avessimo 4 o 5, e potessimo considerare esclusivamente le ore in cui l'energia è più cara, ecco che in quel caso avremmo una differenza maggiore. Questo diciamo in generale. Teniamo conto però che i prezzi di energia in questi ultimi anni stanno subendo una variazione. Una trasformazione nella loro struttura oraria proprio. Sì, diciamo che uno degli effetti del fotovoltaico sui prezzi di energia è che nelle ore quindi di insolazione, diciamo. Quando esattamente l'insolazione massima, il prezzo dell'energia è calmierato appunto dalla presenza del fotovoltaico, mentre invece i prezzi sono cresciuti nelle ore serali, nelle ore notturne. Quindi non è facilissimo individuare quali saranno le fasce orarie in cui il prezzo più sarà più alto. Più critiche in cui questo effettivamente avverrà. Vabbè, insomma, noi abbiamo sempre criticato questo eccessivo boom del fotovoltaico, ma ci fa piacere che a questo sia servito, noi dico, qui a Smart City, / Mr. Kilowatt. No, il fotovoltaico sta avendo un impatto effettivamente sui prezzi. Tecnicamente si dice che il fotovoltaico ha costo marginale uguale a zero, cioè non gli costa niente una volta fatto l'impianto produrre l'energia, perché è gratis. È gratis, è il sole. Grazie Massimo Gallanti. Grazie a Melis e saluti a tutti i radioascoltatori.